ancora una volta ho rimasto solo, ma hai lasciato pure tu. Non so perché, non so perché, nessuna ragazza poi rimane con me. Stavolta parlerò da solo, mi dirò ragazzo così non va. Lasciala in pace per carità, quella ragazza non fa per te e non scommettere dai, tanto sicuro che perderai. Ancora una volta ho rimasto solo e da solo resterò. Ancora una volta ho rimasto solo, ma hai lasciato pure tu. Non so perché, non so perché, nessuna ragazza poi rimane con me. Stavolta parlerò da solo, mi dirò ragazzo così non va. Lasciali in pace per carità, che la ragazza non fa per te e non scommettere dai, tanto è sicuro che perderai. Ancora una volta mai rimasto solo e da solo resterò. Yeah.